caso e quel che sento davvero. Ma le prime parole che mi vengono da dire sono soltanto queste, tu mi fai impazzire. Dai, dai. Sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il volo. Poi sposti i capelli e fai una smorfia strana che capisce soltanto